Ben ritrovato Riccardo Goretti, ci sei? Eccoci qui. Oh. Trovati a voi. Con te per parlare del tuo spettacolo che ben conosciamo, Gobbo a Mattoni, soliloquio a due voci per 50 anni di cultura popolare, che sarà in scena il 9 e 10 febbraio al Teatro Studio Udo qui a Roma. Allora, intanto per chi ci ascolta, Riccardo, raccontiamolo brevemente. Lo spettacolo dici? Sì. Pronto? Sì, dico lo spettacolo. Scusa, non ti sentivo più. Sì, guarda, lo spettacolo è semplicemente, tra molte virgolette, è il tentativo di ricostruire la storia dei circoli Arci in Toscana. Più che altro, più che circoli Arci, in Toscana si chiamavano Case del Popolo, perché Sì. veramente negli ultimi 50 anni, in tanti, soprattutto nei piccoli paesi toscani, sono stati il punto di ritrovo di tutto il paese, quindi dove succedevano le cose, ecco. Veramente un po' come una volta erano l'agorà greca, in Toscana era la casa del popolo. E quindi ci è sembrata una cosa, soprattutto ora che stanno morendo e che ne chiudono a mitraglie proprio, ne chiude una alla settimana, e quelle che sono molto meno vive e attive, quindi ci sembrava giusto tentare di fare questa specie di elogio funebre, purtroppo, di canto alla casa, a quella che era la bellezza della casa del popolo, raccontata chiaramente anche rapportandosi ai problemi anche che hanno ora, per esempio il gioco d'azzardo, perché sono in tante di queste per sopravvivere hanno messo i videopoker, che chiaramente è completamente contrario all'etica con cui erano nate, Sì. e cose di questo tipo. Ecco, questo è un po' il racconto di Gobbo a Mattoni. Senti, nel costruire la drammaturgia, su quali materiali, vi siete raffrontati? Guarda, tu sai, visto che Certo. sono stato tante volte anche ospite lì da voi a Radio Teatro, che io molto spesso costruisco gli spettacoli intervistando persone, già prima con gli omini, poi Annunziata Lettanenzi, Ester Emanuele Miriati, tutte cose che sono passate da te, insomma, anche. E in questo caso però non volevo. Anche se Massimo, che è poi il regista dello spettacolo, mi ha portato un sacco di materiale video registrato da lui in giro per i vari circolini della Toscana, soprattutto della provincia di Prato, però io ho voluto prendere soltanto qualche spunto da lì e il resto delle storie inventarmele, chiaramente basandomi su quei materiali lì, quindi è un lavoro un po' più anche di fantasia, insomma, non è esattamente nel mio stile, proprio quasi documentaristico, come faccio di solito, invece questo è un po' più libero, però insomma, considerando che la tournée in Toscana è stata fatta in quasi tutti i circoli che esistono, penso che ci siamo riusciti, perché un sacco di gente poi alla fine si commuove e ci riconosce il fatto che abbiamo restituito un affresco abbastanza fedele, ecco. Sì, poi immagino anche forte della tua esperienza personale. Certo, sì, sicuramente, cioè sono posti. Io, sai, questa roba qui l'ho vissuta un po' di rimbalzo, diciamo, Certo. perché già comunque quando ero ragazzo io c'era già iniziava il declino, insomma, Sì. di questo rispetto a quanto sono state importanti per le generazioni dei nostri babbi e dei nostri nonni. Sicuramente sono luoghi che già quando ero ragazzo io erano un po' meno, però certo c'è tanta anche della mia. Essendo un toscano di provincia, chiaramente c'è tanto anche di me dentro, ovvio. Come sempre, del resto, poi. Senti, ci racconti anche un po' brevemente della tua esperienza solista dopo l'esperienza con gli omini? Ma guarda, ormai si va un bel po' indietro nel tempo, perché la mia esperienza con la compagnia è finita nel 2012. Certo. E io da lì in poi mi sono guardato un po' allo specchio e mi sono reso conto, cioè diciamo mi sono ammesso quello che da tanto tempo cercavo di tenermi nascosto, cioè che io purtroppo per fortuna non ho un'anima sola, ce n'ho un miliardo e bisogna che dia da mangiare a tutte queste, perché nei miei gusti rientrano nello stesso modo il primo Roberto Benigni, Woody Allen, Antonio Rezza e Nanni Moretti, quindi chiaramente son cose talmente diverse e influenze artistiche talmente diverse che poi, bene o male, io le devo nutrire un po' tutte. Quindi ho preso, diciamo, la palla al balzo di essere diventato un freelance totale e ho cominciato a collaborare con realtà svariate, insomma, della Toscana. Appunto, mi ritrovo da fare lo spettacolo al circolino Arci di Coiano, in provincia di Prato, a fare la vita ferma con Lucia Calamaro all'Odeon di Parigi il giorno dopo, ecco. Sì. E io ho capito, se c'è una cosa che ho capito in questi ultimi anni, che io devo fare così, perché sennò impazzisco. Devo avere entrambe le cose. Devo fare la serata di stand-up con Massimiliano Loizzi al Cicco Simonetta a Milano, e poi il giorno dopo essere all'Argentina, però all'India, a Roma, insomma, sì, capito? Sì. Questo, devo fare così, via. Sennò... Senti, Riccardo, questa stagione dove ti vedremo poi, dopo questo appuntamento romano? Allora, tornerò a Roma, ma in residenza. Sì. Quindi non nei palchi, perché iniziamo a preparare lo spettacolo nuovo, per l'appunto, con Lucia Calamaro, che sarà una cosa strepitosa, ma purtroppo non posso dire perché, maledizione. Credo di non potere, però diciamo, non ho la previa autorizzazione di Lucia, quindi preferisco non dire niente. Quindi sarò lì e chiaramente prosegue anche per tutto marzo e aprile la tournée della Vita Ferma. Io continuerò a fare anche per un bel po' i miei spettacoli da solista in giro, che diciamo per me la stagione del 2018 si interrompe a fine aprile, quando poi mi chiuderò invece appunto in residenza a Roma e comincerò a provare. E poi se ne riparla in estiva, insomma. Bene. Allora, ci lasci a questo punto tutti i riferimenti web per saperne di più. Infatti, guarda, si stavo proprio anticipando per tutto questo discorso qui. A chi interessasse, c'è il mio sito, che è facile da ricordare, perché è www.riccardoveretti.com, e nella sezione prossime date c'è scritto, insomma, ci sono tutti i prossimi appuntamenti per vedersi, ecco. Allora, l'appuntamento più prossimo, lo ricordiamo, Gobbo a Mattoni, soliloquio a due voci per 50 anni di cultura popolare, 9-10 febbraio al Teatro Studio 1 qui a Roma. Riccardo, un abbraccio e a risentirci presto. Anche a te, e più che a risentirci, arrivederci, perché certo. Se non vieni a vederlo, inseguo fino a casa tua. Quindi... ci vediamo lì. Ci si vede a teatro. Ciao Riccardo. Ciao.